Mi gira la testa, è il caldo che mi scioglie. Le tipe che a sto giro girano sempre più spoglie. Può darsi siano entrambi, bisogna rinfrescarsi. Voglio un mare immenso per tuffarmi. A stare al chiuso, costo caldo, poi ci scleri. Stasera me la sciallo, voglio star senza pensieri. Hey, come? Che si fa? Beviamo una cosa là. Ma no, andiamo qua. Sai che lei non te la dà. Voglio solo godermi del sano relax. Già, non beviamo champagne, ma no. Qui si balla e si salta. Yeah. E la musica esalta, l'ambiente si scalda, la notte si infiamma. Boom. E si canta. Oh, oh, oh. Quando mi alzerò, non lo so. Ma? Sulle mani ancora un po'. Sì. So che ci sballate a fare. Oh, oh, oh. Sai che mi sento bene. Bene. Quando siamo con la cumba tutti insieme. Yeah. Dai DJ, premi play, se ci sei anche tu grida. Oh, hey. Quanti scazzi nella vita, già, non li lascerò mai, sopravvento su di me. Me la ballo con i fre, tra le sister che fanno balletti, osè, stile Beyoncé. Mi godo questa brezza, il vento mi accarezza, dona tutti un senso di freschezza. Scaccio l'amarezza, brindo cin cin, per essere felici non serve la limousine. Ballate estate in queste serate, atmosfera magica. L'ambiente si scalda, la gente che salta, sente in me la libertà. Voglia d'estate ci accompagnerà. Voglia d'estate dove porterà. Sento alla Hawaii, in qualche mega party stile American Pie. Sono da ste party tonight. In mezzo presi bene che mi dico bella Mike, yes. Tocca il cielo con un dito. Oltre le nuvole hai capito che c'è un cielo pieno di stelle, pronto a scaldare la pelle, ad illuminarti il viso. Ragazzi, che facce? No, la foto no. Mi spiace. Infame. Foto imbarazzanti. Giorno dopo su Facebook hanno 100 mi piace. Ascoltiamo buona musica. Yes. Dall'hip hop al reggaeton, dalla dance al rock. La ricetta è sempre la stessa. Amici, atmosfera e ti senti al top. Top. Ed è una sensazione unica. Dopo un inverno eterno si riscalda pure l'anima. Non sento più lo stress, sento la musica. In questa estate magica. Se suona una band, hey, alla Smash Mouth, why can we be friends? Bella man, ti senti leggero. Aspetta, non è che sei in botta di bambero. Fatto sta che ste di pelle sembrano più belle. Pure le picce appaiono fotomodelle. Ma non importa, ciò che conta qua è stare bene tutti insieme con la musica che fa. Vogliate estate in queste serate. Atmosfera magica. L'ambiente si scalda, la gente che salta, sente in me la libertà. Voglia d'estate ci accompagnerà. Voglia d'estate dove porterà. In spiaggia o in viaggio, neanche tu lo sai, ma so che quest'estate non la scorderò mai. Voglia d'estate. Voglia d'estate. Voglia d'estate. Voglia d'estate. Voglia d'estate.